Totti sta vincendo la gara del maestro. L'amore fa tornare. torna da te e dalla pelle al cuore sono davanti a te. Tuturu turu tutu tuturu turu tu tuturu turu tutu tuturu turu tu. Diesero

progettuale per tutto il comparto delle arti dal vivo. Ci siamo detti e dette che questa situazione difficile deve essere un'occasione per ristrutturare un settore che è da anni in sofferenza e bistrattato. Siamo in un momento importante perché la presenza dal vivo, lo stare qui per quasi un mese ormai, ci ha permesso di fare circolare tante idee, e una delle idee che è diventata un progetto che presenteremo giovedì prossimo, qui proprio davanti all'Argentina, facciamo una conferenza stampa all'aria aperta alle 11.30, è il progetto di formazione retribuita permanente. E adesso io vi passo un'altra delle mie amiche e colleghe, perché qui siamo in tanti e tante, che vi racconta il progetto di formazione permanente. Passo la parola a Barbara. Ciao! Ciao Barbara! Noi abbiamo scritto questo programma, lo chiamiamo così, programma di formazione retribuita e permanente. Ma la cosa bella è che è un programma nato da una comunione di intenti di noi, che siamo attori, attrici, tecnici, danzatrici, che si riuniscono da ben 29 giorni, e in maniera propositiva. Quindi questo presidio si è trasformato in volontà di proporre qualcosa. E il programma consta di una proposta di corsi a cui possono accedere professionisti dei vari campi del settore, quindi non solo le attrici e gli attori, ma anche i tecnici, ma anche le danzatrici e gli danzatori, anche i drammaturghi, le registe, insomma, diciamo tutto il comparto. Già professionisti, quindi non da professionalizzare. E corsi che durano tot, ovviamente, e quindi non tanto, ma che hanno la caratteristica nuova, la novità, è che forniscono un pagamento a chi ne beneficia. Pagamento che consta sia della giornata pagata, ma anche della giornata contribuita. Quindi si fa in modo che le persone che non lavorano da un pochino, perché poi ovviamente abbiamo scelto anche dei criteri per partecipare a questi corsi, quindi persone che non lavorano da un pochino possono accedere a questi corsi, quindi non solo per continuare a formarsi, cosa che è fondamentale nella carriera, diciamo, della parte sia artistica che tecnica, del mondo dello spettacolo, della musica, della danza, perché comunque, sai, non è che studi una volta e dopo 30 anni, insomma, va bene così, è ovvio che ti aggiorni continuamente anche per conoscere anche persone nuove, eccetera, e in più vieni pagato, quindi hai questo sostegno continuo e con contributi, quindi da considerare al pari di un lavoro, quindi la formazione è totalmente integrante con la parte lavorativa della nostra carriera. Stessa cosa per i formatori, anche i formatori avranno vari criteri a cui rispondere per poter partecipare, anche loro con paghe, abbiamo pensato a paghe calmierate per tutti, sia per chi insegna che per chi usufruisce, questo per dare poi la possibilità di partecipazione a tutti, quindi anche qui una novità, riconoscendone una paga sicuramente più adeguata, però sai, è sempre successo che magari arrivino formatori che si prendono la fetta maggiore dei soldi e quindi poi ne rimangono pochi per il resto. In questo caso, siccome noi vorremmo che fossero pagate tutte le persone, sia i docenti che i fruitori, ecco. Allora, ricapitolando, l'appuntamento davanti al Teatro Argentina è quotidiano alle 11.30, la conferenza stampa è giovedì 3 dicembre, sempre alle 11.30, sempre davanti al Teatro Argentina. Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più? Noi a tuttora abbiamo una pagina Facebook che si chiama Presidi Culturali Permanenti Roma, ci siamo dotati chiaramente delle mail specifiche, abbiamo comunicati stampa e il programma che presenteremo proprio in questa buffa conferenza stampa che avverrà sempre qui dal marciapiede, distante al Teatro Argentina, e basta. Presidi Culturali Permanenti Roma, un saluto ai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie mille, grazie, a presto, ciao! Con Francesca Turrini del collettivo di attrici Amleta per presentare il progetto. Francesca, ben trovata! Ben trovato, Federico! Ci racconti di questa iniziativa? Collettivo, in realtà a breve, a giorni, a minuti, un'associazione di promozione sociale nata durante il primo lockdown dall'esperienza di Attrici Attori Uniti, che è un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che si è ritrovato per discutere e parlare della chiusura dei teatri che ci ha lasciato a casa. Subito dall'inizio abbiamo sentito la necessità, io con alcune delle mie colleghe, di confrontarci sulle tematiche che riguardano il genere, quindi dopo un primo momento di studio abbiamo deciso che era il momento di salpare, di prendere il largo da Attrici Attori Uniti, esperienza a cui comunque siamo sempre molto legate, ma avevamo bisogno di intraprendere un nostro cammino, e da lì è nata Amleta. Quali sono gli obiettivi e poi se ci sono i prossimi appuntamenti già fissati? Gli obiettivi di Amleta tendenzialmente sono tre: rappresentanza, contrasto alla violenza e rappresentazione. Per quanto riguarda la rappresentanza, siamo usciti giusto ieri con un comunicato in cui abbiamo denunciato l'assenza totale di direttrici donne nei ruoli apicali dei teatri nazionali, che dovrebbero svolgere appunto un servizio pubblico in quanto finanziati dal FUS, dal Fondo Unico per lo Spettacolo, e quindi sono soldi pubblici. Quindi la rappresentanza è la prima cosa che ci preme. Noi siamo convinti che se le donne incominciano a ricoprire posizioni apicali a cascata, tutti i ruoli, quindi delle registe, delle drammaturghe, delle attrici, aumenteranno. Rappresentazione, ci stiamo molto concentrando sulla rappresentazione, come vengono rappresentate le donne, quali stereotipi vengono utilizzati nei testi di drammaturgia contemporanea. Stiamo infatti da mesi ormai alacremente lavorando su un test che intende stabilire e premiare gli spettacoli virtuosi che non solo raccontano le donne dal punto di vista numerico, ma anche che le raccontano in un certo modo, sfaccettate. Stiamo ovviamente lavorando per creare dei parametri che siano il quanto più possibile oggettivi, perché non vogliamo valutare un'opera dal punto di vista artistico, ma semplicemente valutarla in un'ottica di genere. E poi contrasto alla violenza, che forse è quello che ci preme di più. Per anni le attrici hanno creduto che gli abusi subiti in ambito lavorativo fossero questioni personali che riguardavano loro. Noi siamo arrivate con Amleta gridando: guardate che non sono problemi personali, è un problema sistemico quello della violenza all'interno del nostro comparto e non solo. E quindi abbiamo attivato un'osservatorio, la mail è osservatorio.amleta@gmail.com, in cui raccogliamo le denunce delle colleghe che hanno subito molestie e violenze, anche molto pesanti. Non ci sostituiamo ovviamente alle altre professioniste, alle avvocate, ma noi facciamo come punto d'incontro per poi consegnare tutto il materiale alle persone che ne prenderanno carico e procederanno alle denunce. Quindi questi sono gli obiettivi a breve e a lungo termine. Per quanto riguarda quello che abbiamo già fatto, siamo usciti oggi con la mappatura dei teatri nazionali DRIC e Fondazione Piccolo Teatro di Milano, in cui abbiamo rilevato la presenza delle attrici sul palco, delle registe e delle drammaturghe in questi teatri, che ricevono quindi i maggiori finanziamenti pubblici. Ci siamo rese conto non solo che le donne sono meno rappresentate nei nostri palcoscenici, ma sono anche meno rappresentate nei palchi principali dei nostri teatri. Quindi spesso e volentieri i testi scritti da donne e le registe donne si ritrovano a recitare nelle sale più piccole, quindi quelle con meno pubblico, con meno circuitazione. E questo è un dato che un po' ci fa male, anche perché è risaputo, ci sono dei dati che lo confermano, che la maggioranza del pubblico in sala è formato da donne. Quindi le donne vanno a teatro e vedono il lavoro sempre filtrato dall'occhio di un uomo. Ecco, questo è quello che stiamo facendo in questo momento e che abbiamo intenzione di fare. Ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Allora, noi siamo attivi su Instagram, amleta_a, digitando Amleta comunque ci trovate, e su Facebook lo stesso indirizzo, amleta_a. Abbiamo attivato anche una newsletter, quindi se volete essere informati, una volta al mese faremo partire una newsletter per tutte quelle persone che magari sono semplici spettatori, persone affezionate, spettatrici. Ci sentiamo allora per i prossimi appuntamenti. Francesca Turrini per il collettivo di attrici Amleta. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo, alla prossima. Con Barbara Mazzi, attrice e co-direttrice artistica del progetto Fahrenheit Art Needs Time, un percorso artistico tra letteratura e teatro a cura de Il Mulino di Amleto di Torino, online da ottobre a dicembre 2020. Barbara, ben trovata. Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti. Ce ne parli? nome è ovviamente evocativo, è tratto da romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451. È iniziato questo progetto nel primo lockdown, quindi alla fine di marzo, perché con Marco Lorenzi ci siamo interrogati di una questione molto semplice. Noi abbiamo una compagnia teatrale e diventava davvero complicato allontanarci così tanto dalla compagnia, dai propri attori, perché è un lavoro fatto anche di allenamento insieme, ovviamente di presenza, è necessaria la presenza, di affiatamento, di training, e quindi venendo a mancare tutto quello ci siamo un po' spaventati, diciamo così, ecco, che questo anche la voglia delle persone, che ovviamente già nel primo lockdown piano piano uno si abbatte con l'umore e tutto, insomma, venisse un po' a incidere nelle proprie anime, diciamo così. Quindi ci siamo interrogati su come rimanere ancora in contatto e soprattutto nel momento in cui tutti i luoghi di cultura comunque venivano chiusi per primi, che adesso nel secondo lockdown nuovamente, noi ci siamo iniziati a chiedere ruolo all'artista all'interno della comunità, se è così semplice chiuderci senza avere un minimo di responsabilità. Quindi questa domanda era molto forte, ecco, e bruciante, e quindi ci è venuto in mente proprio il romanzo di Bradbury, in una frase nello specifico che dice: se ti chiederanno cosa facciamo, tu risponderai: noi ricordiamo. Ecco, quindi in un momento come questo appunto ci siamo sentiti responsabilizzati di questa cosa, che avevamo comunque la necessità di tornare, esserci nonostante non ci fossero luoghi, quindi dovevamo in qualche modo riaffermare essere un bene di prima necessità. Quindi i romanzi in questo senso sono stati un pretesto per riavvicinare anche le persone, perché ogni romanzo che è stato scelto dagli artisti del Mulino è iniziato con un gioco. Marco ci ha detto: proponete un romanzo che per voi è assolutamente indispensabile e non debba essere bruciato. E quindi ognuno di noi ha portato un suo proprio romanzo. Questo gioco si è esteso anche agli spettatori, chiamiamoli così, insomma ai cittadini in questo caso, perché appunto il teatro non c'era. Ai cittadini, e ognuno delle persone che viene ai nostri appuntamenti porta un romanzo che profondamente vuole salvare dal rogo, e se non lo salva viene bruciato, nel vero senso della parola, cioè come appunto chiudere un luogo di cultura, una scuola, un museo, e quindi quel romanzo, se non viene salvato, viene bruciato. E allora da lì scopre le persone, in realtà scopre che dietro ogni romanzo portato, ogni libro, c'è una persona. In questo modo è un progetto anche per ricreare comunità. Doveva essere un percorso anche per riavvicinare delicatamente le persone al luogo teatrale dopo tutti questi mesi di chiusura. Così è stato per un paio di mesi, poi di nuovo siamo entrati nel lockdown, e quindi adesso è un restare in contatto, un creare comunità, ed è necessario questo, assolutamente, per noi insomma è fondamentale. Questo è, mi sembra, un bel pretesto, un bel gioco, un bel pretesto per farlo, ecco. Una doppia curiosità: come funzionerà online e quanti sono i testi finora approcciati? Dunque, noi continuiamo a vederci come compagnia, ci vediamo in presenza, facciamo le prime ore di allenamento, di training, alle quali ovviamente adesso non può partecipare lo spettatore. Dopo queste due ore, nel quale noi appunto ci siamo allenati e magari abbiamo fatto anche un riepilogo dei feedback, ognuno del proprio libro, perché ogni artista sta preparando degli atti creativi relativi al proprio romanzo, apriamo il collegamento, noi andiamo in questo caso su Google Meet e apriamo il collegamento a chi si è iscritto, ci presentiamo, raccontiamo il perché abbiamo scelto i nostri libri e come li stiamo portando avanti a livello performativo, e ogni persona presenta il proprio libro perché lo vuole salvare e ci legge un estratto ad alta voce. Adesso stiamo anche ideando dei piccoli frammenti di performance da restituire agli spettatori che si iscrivono in remoto, cioè li progettiamo apposta per il remoto. Ad esempio, io sto facendo un lavoro su Dostoevsky, che è una specie di documentario, quindi ho fatto tutta una drammaturgia digitale e la condivido, condividendo lo schermo, condividendo l'audio e tutto, sto facendo vedere il mio percorso della drammaturgia digitale relativa a Dostoevsky. Un altro collega sta lavorando sempre su Dostoevsky, ma non salviamo solo Dostoevsky, su Delitto e Castigo, e ha preparato un gioco interattivo da fare. Quindi le performance che vanno sul remoto sono progettate per il remoto e per il digitale, ecco, non è un surrogato. E poi, per rispondere all'altra domanda, ad ora siamo su una quarantina di libri, più i nostri sei, se noi siamo sei attori, due attrici e quattro attori, con il coordinamento di Marco Lorenzi e Alba Maria Porto, e appunto stiamo lavorando a sei romanzi diversi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Il nostro sito è www.ilmulinodiamleto.com, e il nostro Facebook è Il Mulino di Amleto, è una compagnia teatrale di Torino, che ha sede a Torino, ma insomma fino a che è stato possibile mi ha fatto le tournée in tutta Italia e ci mancano. E poi Instagram è Il Mulino di Amleto, e lì troverete proprio anche per iscriversi a questo progetto. La mail invece è info@ilmulinodiamleto.com. Fahrenheit Art Needs Time, sì. Il progetto del Mulino di Amleto. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Barbara Mazzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te, davvero, e a voi tutti. Grazie, a presto. Con Antonietta De Lillo per presentare 1934, 40 anni dopo, una selezione in anteprima online di fotografie inedite dal 23 novembre al 2 dicembre 2020 su marechiarofilm.it e sui canali social del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Antonietta, ben trovata. Ciao, come va? Dai, abbastanza bene. Sono contento di sentirti anche in questa veste di fotografa. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Beh, innanzitutto si tratta della mia prima vita, cioè del primo strumento che ho usato per raccontare con immagini, ed era tanto tempo fa, appunto 40 anni fa. Però quello è stato il vero battesimo, quello è stato il momento in cui veramente ho iniziato a viaggiare. Ho iniziato a viaggiare a Napoli, per la mia città, in luoghi per me sconosciuti, con questi Nikon, con queste macchine da presa. Ho iniziato a raccontare con il fotogiornalismo. Era domenica, ero invece così in macchina in una Renault 4, in una situazione tipica, e ho visto effettivamente scendere tutti dai palazzi e non capivo perché noi non avevamo sentito niente. E poi man mano ho capito che cosa stava succedendo, e il giorno dopo ho preso la mia Renault 4 da sola e sono andata in Irpina, sono andata a Laviano, a Sant'Angelo, insomma. E lì davanti a me c'è stata una delle scene surreali, cioè nel senso che erano talmente forti, i paesi non c'erano più, era una discarica, però con queste persone che scalavano cadaveri e bare. Avevo a un certo punto, per ritrovare un sentimento, ho dovuto levare la macchina da presa davanti alla mia faccia per credere in quello che stavo guardando. E poi ho ripreso a fotografare, e ritrovare queste immagini dopo 40 anni è stato un po' come riguardare la situazione, ma anche riguardarmi a me. Ero giovanissima, eppure mi sono trovata a testimoniare quella cosa veramente pazzesca. E secondo me aver ritrovato quelle fotografie oggi, dove siamo anche noi in una specie di situazione di impotenza di fronte a un avvenimento, diciamo, più grande di noi o che comunque che ci minaccia, non è un caso che appunto l'IMAN, il Museo Archeologico a Napoli, ha deciso insieme a Mare Chiaro di fare una mostra che parla del passato ma in realtà parla del presente. Purtroppo siamo chiusi, tutti noi che facciamo cultura, diciamo, abbiamo un solo credo in questo momento, che la cultura non si ferma, e quindi abbiamo voluto creare questa piccola anteprima, come se fosse l'ingresso di una mostra con 10 immagini, una mostra tra più di 100 immagini, avrà un percorso appunto anche di narrazione di quell'avvenimento, non si fermerà il 23 novembre ma lo seguirà, anche perché quell'avvenimento, come tutte le cose, c'è un lato A e un lato B. Rispetto a quello che vediamo oggi, lì c'è stata una solidarietà e un'unione dal sud al nord, l'Europa, arrivavano soccorsi dappertutto, cosa che invece ora sembra che di po', siamo tutti a fare cani e gatti di chi è la responsabilità, chi deve fare una cosa e chi deve fare un'altra. in questo quindi quell'avvenimento ci potrebbe insegnare qualcosa sull'oggi, e invece purtroppo allora come oggi non siamo stati pronti, non hanno avuto soccorsi, non c'era la protezione civile, e quella lezione di dover avere un piano di emergenza evidentemente è caduto un po' nel vuoto, perché anche in questo caso, nell'epidemia, nel caso Covid che abbiamo, non abbiamo avuto un piano di emergenza attivo, efficace. Ecco, per certi versi quella tragedia segnò un punto di svolta, perché allora fu scandaloso il ritardo e la gestione dei soccorsi. Assolutamente, era incredibile che c'era la gente viva e non c'erano le ruspe, non c'era come soccorrerli. Però è anche vero che era un momento dove anche il Presidente della Repubblica non aveva paura di dire chi ha sbagliato paga. È stato un momento dove è nata la protezione civile, ha creato una svolta in qualche modo. E per noi campani sicuramente c'è un prima terremoto e un dopo terremoto. In qualche modo ci sono state tante cose negative, uno spreco di soldi, perché sono arrivati tanti tanti soldi. Però è stato anche un po' come mettere la luce, mettere un riflettore su delle terre che erano proprio abbandonate. Se tu vedi le fotografie, come hai visto ovviamente, sembrano immagini di un'Italia degli anni 40, 50, cioè erano veramente territori dimenticati proprio. Sono immagini molto più antiche. E secondo me il terremoto è anche servito per porre l'attenzione sui territori del sud completamente abbandonati. Certo, il costo è stato altissimo, insomma 3.000 morti sono tanti, paesini distrutti, però in qualche modo una ricostruzione è stata fatta, legata a tanti soldi, però ora i paesini diciamo si sono rimessi in piedi, lì è stato ricostruito. Antonietta, ci dai tutti i riferimenti internet nuovamente per saperne di più? Sì, li trovate diciamo tutte le notizie sia sui social di Mare Chiaro Film che sui social del museo, e poi comunque la mostra è sul nostro sito www.marechiarofilm.it, e speriamo di vederla quanto prima in presenza e che i musei come cinema e come i teatri possano riprendere. Il che vuol dire che tutti noi potremmo riprendere ad uscire e a incontrarci di persona. 19.34, 40 anni dopo, una selezione in anteprima online delle fotografie inedite di Antonietta De Lillo dal 23 novembre al 2 dicembre 2020. Antonietta, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a prestissimo, ciao. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.